l'antenna, i semitritrattori si fanno sotto l'antenna, no, dai tu casa. La gaffa gaffa, e sarà per quello, sarà, perché non è mai successo, soprattutto con te non è mai successo, sempre 9.25 sono adesso. Si conferma. Allora lo lascio stare così, dai. Sai cos'è? Che io lo arrotolo ogni tanto per metterlo, lo metto da parte in fuori per non fare il contatto con me dalle scatole, hai capito? Stai sbagliando, stendilo, accorciatelo, fatelo a misura e vai su TBS. Io e Calvi, in ingresso ai baracchini, alle radio, tutti devono essere perfetti, cioè fatti a misura. Cavolo, arrotolato in terra non ce ne deve essere, capito? Perché altrimenti non va bene. Né in terra interno e né in terra esterno, niente, cavolo, deve essere fatto a misura, se no non va bene. Ok, avanti Fabri. Capo, la ragione è chiara, non devi cazzo devi farla arrotolarla, farla ammazzare, ti crea problemi, o lo fai giusto oppure cerchi di allungarlo per terra, però non devi fare specifici di spirale. Sì, capo, ma prima da te qualche cosa ha aumentato, sì. No, guarda, qua è di Santiago 2. Ma vai, quello è Santiago 2. Ma qua devi sempre così, 9.5, 9.10. Sarò un minimo 9.10. Già va bene. Quanto che siamo alla radio, poi siamo vicini. Quello che le fare 8 le fare 9.30, ma quanto c'è la radio buona? Pappagappa, buona sì. Allora non sto usando molta potenza, se no guai. Potenza non serve usare, siamo vicini, cos'è di potenza? L'importante è le gambe di radio e poi il resto, cosa te la fai da 9.40. Avanti Luca. Luca, non c'è caso, riprendi te. A me sembra che stava andando a vedere qualcosa da pappare. Ma ascolta, adesso mi sono ricordato. Già un 3 giorni che ascolto. Avevo ascoltato una volta in 40 metri, una volta in 50, faccio, ma dimmi una cosa, ma la sigla IW0 è stata eliminata da quando hanno introdotto, cioè tutti che avevano la IW0 l'hanno passato di S0, ma perché questa stazione usa sempre il nominativo VHF? Se vuol dire che non ha fatto il cambio di nominativo, se tu sei un EW0 e prima non potevi usare l'HF, quindi potevi usufruire solo delle V e delle U, la così chiamata classe di patente B, oggi se le classi sono unificate tu con lo stesso nominativo puoi andare dove vuoi, quindi non c'è nessun problema, risulti sempre un radioamatore con patente speciale, cioè con patente ordinaria, non speciale. Se vuoi cambiare il nominativo e portarlo a ISDR devi fare il cambio di nominativo al Ministero delle Telecomunicazioni, se no puoi usare quel nominativo dove vuoi e quando vuoi. Io credo che fosse automaticamente d'ufficio che te lo scrivano. C'è una volta data la legge e tutti sono IS0, quindi automaticamente gli hanno dato un'altra sigla. Invece questo usa sempre questo qua, IW3, in zona dell'Alto Adige. Se va strano. Non c'è nessun problema. Io avevo fatto il cambio dalla patente speciale a quella ordinaria e quindi automaticamente mi è stato dato d'ufficio il nominativo. Ma chi ha la patente, perché ho dato il secondo esame, chi invece ne ha dato uno di esame è rimasto IW0 per quanto riguarda la Sardegna, eccetera, eccetera, e però non fa la richiesta di cambio di nominativo come IS0, rimane sempre IW0, ma non è detto che non può usare l'HF. Oramai le patenti sono unificate, quindi lui si chiama IW0 URT come ero io prima e usa il nominativo, quel nominativo per fare anche l'HF, quindi è sempre un IS0, è sempre una patente ordinaria, non più speciale, non esiste più la speciale. Ehi, ma io credevo che ne avessero, te l'avrebbero fatta di ufficio senza richiederla, capito? Quindi questa non richiede mai, rimane sempre con quella sigla lì. No, l'ufficio te la danno se hai conseguito l'esame, se sei stato promosso da W0 a IS0. fatto io, allora te l'hanno ufficio. Invece chi non ha usufruito del secondo esame della telegrafia, quindi già dopo che è stata eliminata, lui era W0, quindi esame non ce ne sono più, deve chiederla d'ufficio, deve fare la domanda per il cambio di nominativo, allora te la danno, se no rimane sempre W0. Un mio amico gliel'hanno data loro senza fare domanda a lui, e lui aveva solo la patente per le HF, cioè per le VHF, e lui dice gliel'ha mandato una cosa a Cagliari già con nominativo senza richiedere niente. Tu? È impossibile, a lui gliel'ha mandato una copia della domanda per se voleva il cambio nominativo. Lui l'ha firmata, compilata e mandata indietro, gliel'ha mandata all'ufficio. Se lui non riceveva questa cosa non avrebbe avuto il nominativo di classe A, capito? Così chiamato. No, bisogna fare la domanda, io ce l'ho, l'avevo fatta per richiederla, invece poi mi era arrivato il nominativo direttamente di ISD. Ma perché avevo conseguito il secondo esame, se no lo dovevo richiedere. Molta gente sa se l'ha richiesto. Io sono un mio amico di Torino e mi metto, come l'altro giorno ci siamo sentiti perché mi deve spedire una radio e mi ha detto che lui aveva solo la patente. La patente speciale, no? Mi ha detto, gli hanno mandato d'ufficio, come hai detto tu, un cosa da compilare, con già il nominativo, cioè gli hanno già scritto il nominativo, cioè non gli ha scelto la sigla della sua regione. Vuol dire che ha conseguito l'esame, vuol dire che era promosso quando gli hanno cambiato il nominativo, quando c'era ancora la telegrafia, se no è impossibile. Che tutti quelli a Sassari che erano il W0 hanno dovuto fare la domanda per domanda, documentazione, ci vuole la fotocopia della patente che hai già, un sacco di documenti, capite? Se no non te lo fanno. Vabbè, comunque tu stai a futtidini, io voglio sapere dove è Franco Delta 1. Franco? Riprendi lui con Fabrizio Antonio, un secondo mi sposto, provo a telefonarlo a vedere. Sì, sto facendo cosa qua, capito? Sto facendo cosa, riprendi il domando, guarda. Riprendete voi, riprendi Fabrizio Antonio, 2 minuti già torno subito. Ecco, avanti, Luca, cosa allora, hai mangiato un panino o ti hai bevuto un litro di vino? Poco fa però. Lasciamo a posto. No, facciamo roba a Fabri qua. Stiamo lavorando un telefonino. Ah, capito. Bella. Ok, ascolta Luca, com'è il segnale adesso Luca? Quanto ti sta arrivando? Santiago Rove. E la radio? 105. Ok. Allora, Antonio, da te. Ciao Fabri. No, Antonio, è da te. Qua sei 8, dai. Quando parli tocchi 9. Quindi vai, 8 a 9. Fate più basso degli altri giorni allora. No. Sei un po' più basso oggi, ma stai usando di meno, sì. No, strano, la stessa potenza, strano. Prima ti arrivavo di solito. Se no mi arrivavo un po' di più. Non capi anche il più certe volte. Non so, potete sempre la stessa. Andare, guarda cosa è la Formula 1. Mappa. Ma sono già iniziato le prove? Sì, io sto già guardando. Tapparoggero, vabbè, riprenditela, che tu sei già per Paolo. Adesso guardo la Formula 1 un po' e poi mi taglio la barba. No, per tagliare barba, fate la crescita lunga come il talebano. Che ti talebano dopo? No, ma te la fai crescere così. Dai, metto il mio Fusion e vedi che ti sei, cara. E quindi stanotte si va a vivere. va a vivere. Ah. Ah, e dove si va a schiacciare? Dove fai dalle amiche di Luca? Pure quello ci vuole, vabbè. Lo so, capito. Andare, mettiti il casco. Capito, mi hai? Io ho capito già. Quindi stanotte tutti in giro, gatti locale, e poi a schiacciare. Ma cosa è giro? No, beh, no, ci va in giro la festina. Qualche volta sì. Dai, dai, che sei giovane, hai dato qualche volta, sempre. Ma il pipistrello va. Non è gattuto il pipistrello. Ma gamba, già va bene. Ah, in giro per occhiali notturni, cazzo e donne, attenzione. E tu a ci vai? Negativo, nei locali notturni ci facciamo andare i vecchi. Vabbè, dai, un attimo di bianco, dai, riprendi tra tu Luca se c'è qualcuno. Luca sta facendo cosa? E se prima niente? No, faccio una roba, un attimo, se lo faccio un casino qua, dai. Io sono qua ascolto, grappa. Cazzo, non è sciuro, avanti, per qua. Cosa vuoi fare, Claudio? E Claudio siamo parlati un attimino. Volte la prova. finito nella casa di Maccabi, c'è il ristorante di Ubuico, ha detto, girate poi a destra e andando a Siliqua, passando lì da Vallermosa, devi andare, perché devi andare fino in fondo e girare poi a sinistra, poi arrivi al coso per andare alla sinistra. Invece rientrando dalla parte opposta, quando stai rimanendo adesso questo in faccia a fianco all'Accademia, che c'è quella ruota qui, devi vedere se c'è sulla destra, quello è accesso unico, e vuoi andare anche all'altra parte, però viene male a girare, invece ti viene invece passare a fianco dove c'è il circuito, a fianco ai carabini e tiri dritto. Rientrando, capite? Poi tira a destra e ne si spugna. C'è la signora, la bella signora lì che fa i panini all'uscita, capito? C'è una bella signora che suona, che piace a me, che fa i panini, mi fa contento di capito, tu sei a Villa Cidro o sei dove sei? Stare dove? Per tornare dietro qua a Sassari? Capite? Per tornare a Sassari stai dietro tu. No, fermo un attimo, se tu da Villa Cidro devi tornare a Sassari, fai per San Gavino e esci fuori sulla 131, per fare San Gavino. Se devi andare a Cagliari, a Villa Cidro, fai per Villa So, capito? Villa So e esci al decimo anno. Tutte le strade sono a Sassari. Tante cose, insomma, se mi richiedi cose della Sardegna, i bus e le cose, quello già... Già le so abbastanza bene, dai. Quelle già le conosco abbastanza bene, le zone, dai. Che cosa, ci sono 3 anni, so, dai. Sto appena imparando i punti, capito, le località, capito. Ciao, Fabio. Ciao, Fabio, ciao. Aspetta un attimo, lui sta facendo il corso. Io sto qua, mi sto facendo dopo di spegnere e tornare a pure e tornare a disfare e tornare a pure come c'era prima. E non mi manca mai un piccolo baracchi, no, sto facendo pulizia qua. Perché io non so neanche che radio sta operando, però per come sei messo tu, per quello che adoperi tu, per la radio che adoperi tu, tu esci benissimo, bene, con quel microfono ti ho detto benissimo. Non sei a livello di Fraga, perché la verità è che non è io così fatta a Fraga, non ci sei ancora a quelli che devi, però la tua è dentro quella di Fraga, è bellissima. Vabbè, mi stai considerando, mi stavo dando un baracchino, capito? Io sto usando sempre il Typhoon, un MV più 4, né più né meno. Bellissima Luca, è bellissima, è tutta, lo sento benissimo, te l'ho detto da ieri, è bella, mi piace, è bellissima, capito, è bella, non c'è da dire niente a quella radio, a quel microfono, non c'è a quella modulazione, non c'è da dire niente, te lo sento benissimo. Ascoltarlo in una certa maniera, Claudio, io ho detto che non mi piace fare questa cosa, però è la verità, non posso dire figli una bugia a Claudio, stai uscendo bene che voi, stai uscendo bene, stai uscendo male, no, a me, a orecchio mio, a me non piaceva, perché io sono abituato ad ascoltarlo sempre bene, in una certa maniera, Claudio, e così a te, tu esci sempre bene, tu, io quando ti ho ascoltato esci sempre bene, capito, sempre bene, io sono tu. Ma infatti bisogna dire la verità, quando uno esce male, non è che la gente si offende, perché io mica mi sono offeso quando mi hai detto che non ti piaceva la modulazione. Di microfoni ne ho tanti, bisogna provare quello che va bene col baracchino, tutto lì. No, Claudio, ma bisogna dire la verità, io ti posso dire una parola, te lo ti posso fare un senso, dici no, Claudio, non mi piaceva in quel momento quel microfono, non mi piaceva, non mi piaceva la modulazione. Perché adesso ho pensato a contatti molto migliore, e non lo fai dire una cosa che non può essere buona, non è fatto che sarà abbastanza, non è che è fatto bene, io sono pensato a contatti in questo modo qua, con quella modulazione bella, pulita e chiara. Si conferma, ma infatti uno non è che si deve, come si dice, adirare per quanto riguarda queste cose, tutto lì, vabbè, qualcuno si offende, però io ti posso far nulla, gappa, va bene, dai, 2 minuti di quelli che ci permette, già vi sto ascoltando, vi sto mettendo a posto qua la situation, avanti Luca. Io sto ascoltando, mi chiamano a mangiare, gappa gappa, abbiamo ravioli, ravioli, va bene, chi si offende, quando uno esce bene, esce bene, non c'è niente da dirne, quando uno esce male, tutto qua, bene, veda, e come mai lui non c'ha il, aspetta un attimo, abbasso qua, come mai non c'è il 48? Cosa non posso fare 48, se non posso modulare, cosa non posso fare qua? Non posso andare a ricapare, se ho bisogno di canali altri c'ho l'altra radio, l'87 e via, dai, c'è poi tanta stazione, sai benissimo che modo la meglio con normale così, dai, poi no, con i microfoni normali, con le radio normali, si parla meglio, dai. Beh, pure così, è vero. Gappa, gappa. Ma che la chiude alle 8? Chiude alle 8 e 14. Ma io avrei voluto domani. C'era un appartamento sopra. Io ma casa loro non dà più fastidio. E così vicino, sempre vicino si aumenta un po' di coso, da fastidio a quelli lontano. Non è vicino da fastidio a nessuno. Beh, casino, è un casino in Kiwi, che la porta con 68 a portare a aggiustare, perché abbiamo detto di portare il, come si chiama, se prende anche 40 canali, fatta costata, ha fatto tutti i canali, tutti i canali a farsi portare. Yeah. Oh, lui, fatti ritornare i baracchini, tutti e due da Giancarlo. Sì, sono... Non ho capito Luca, ce l'hai tutte e due Giancarlo, non capisco. Fate di tornare tutte e due. Via, ma le manopole me le prendo io però. Qui a dire. Via, no, adesso sono troppo sentire, dai, lo si stava provando, però dice non faceva, dice non mi garantiva nulla, ma che ultimi questa mattina mi ha chiamato, siamo sentiti, ma adesso non mi garantiva su quello, non mi poteva garantire nulla. Si stava provando e vedevo un po'. Allora io te le porto tutte e due, certamente. Però il conto è che c'è proprio le manopole di quello là, le cose sotto. Ti ho levato io cosa, un piangelo dell'altro, l'altro di Steppo. Ehi, piangi. No, ma c'è scherzato dopo là, no. Quelle mi sembrano quelle regolatori, quelle cose lì, quell'affare lì, quelle manopole del sol. Quella è il conto, per te. E a pensare, pensa. Casino, ragazzi, bebè. Sono fissato, sono fissato. non si può bere, si beve. Ciao, Natali. Sì, sì. Natali, dove l'hai sentito? Ha detto che c'è il vulcano. Ah, boh, io qua non l'ho sentito. Natali. Sta attento di Vulcano, a Massimiliano, buonasera San Giovanni. Ma se dice sembrava la voce di Antonio, ma hai fatto qualcosa Massimiliano? Sei arrivato leggermente appena appena più forte oggi. È positivo. Ma se tu fai un salto a Ottava, ti trovi adesso, ti trovi già adesso qua. Lo sai dove c'è la cos'era? No, la pizza, non la isa, l'arco marzio, avanti, lo c'è il supermercato. È la via. Vedi che c'è la prima ingresso dei truppi, che c'è un coso fatto per un ingresso che sta l'ingresso. A piazza al negozio c'è un ingresso. Nella quasi della prima abitazione c'è un ingresso a entrare in granito, entra lì. Capito? Ci vuole un po' che radio buona ci vuole. Io lo sento, ma staccheranno fuori. Figurati. Solo per stamine per ascoltarti. Regassa, regassa. Con il stream, solo con le resistenze funziona, Luca. Per va. Resistenze non fatte, non fatte. Luigi, ma stavo dicendo, quel tipo che sta parlando con te poco fa, è in macchina a casa? Casa, è già stata fatta la piccola stazione a casa, insomma, però credo, ho visto che ce la fa, che lo chiede se la fa a casa. Se non arrivi, no. Allora, ti incordo. Ma non lo so, io lo sento bene. No, ascoltarlo io lo ascolto bene qua, però lui non ha ripassato. Che? Che ha bruciato? Tu e lui? Cattivo, negativo, può essere un altro, eh. Che beh. Claudio, non mi ascolti, Claudio Cavagala. Ehi, ti ascolto, ma ci vedo un po' da brutto, mi ci vedo sciolto. Stavo chiedendo poco fa, non ho detto più. Perché tra una cosa non mi ha risposto. Fanculo, non me lo ricordo più. Ma ci avevamo messo il perizoma. Sicuramente Claudio è andato al funerale di Andrea. Ci sono andato. Ah, ci sono andato al funerale di Andrea, mi sto chiedendo Luigi. Io già ci sono andato. Non ti ho visto lui. Chi c'era ha visto cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto tutta la prima coda, dopo chiaramente parenti stretti, tutti con le moto e i silenziatori. Io non sono lavorato, non potevo andare, però sto parlando con Luca, sicuramente Claudio si è andato da piccolo, da quello, da piccolo. No, stavo parlando con Luca, adesso stavo parlando con Luca, sicuramente Claudio, il funerale di Andrea si è andato, stavo così con Luca, stavo parlando da piccolo. Io non credo che siamo andati, siamo andati un bel di gente, c'era il motoclub di Porto Torres, c'era quello dei Dragoni, c'era il motoclub di Sassari, poi c'era quello, il motoclub di Us, quello di Alghero, tutti ce l'avamo, tutti. Ah? È artista con Elio Salisi qua, con Sergio Fanni, con Elio Salisi. Andiamo su, sì. Tu immagini, la domenica prima eravamo al motorato una serie, il primo maggio eravamo assieme a Nulvi. Ciao, Pedro, cambiamo discorso. Gli accadevi in garage, era morto. Va bene, cambiamo discorso, va. Gappa, gappa. Non mi ha dato notizie, non so se andare a cenare, se aspettarlo, che ne so io. Attento, Franco Delta. Guardate Massimiliano. Ciao Massimiliano, se mi ascolti. Parlo telefono, muzzo, scarico. Ci vuole anche il caricatore per la macchina qualche volta. Vabbè, dai, io sono qua comunque, già sono in ascolto. Ok, Lu, ci sentiamo dopo. Ciao Gigi, ciao a Fredo, ciao a tutti, già sono qua, rientro dopo, dai. Sì, a dopo. Sono bassi sul microfono. La maggior parte dei comuni italiani. Ma se non faccio anche troppo alto, Ha aumentato lei poco fa. Poco fa era così, mi ha parla. Adesso è a 5, to. Ah, c'è lui il volume alto perché c'è le cuffie. No, no, lascialo stare com'è. Gara. Ma mi ha spavagnato le mucche. Gara. Milano vince la buona gestione. A chi tipo di oltre 150 milioni di euro. aspetto di muovere la cugina dell'avvio di 5 minuti là. Se non le fare cucinare molto, ma se no si disperano tutti. Devi cucinare, ma tu hai un po' di bambini. Tipo fatti a coso a, ma, a tortellino là, diciamo, lì a LLD li fanno ricotta e spinaci, ma sono una favola. Tutti li prendo io qui all'LLD, al coso, non c'è molto niente, c'è lì. già le mangio KK la matta ne rivali a Francoletta, boh. Ma mi chiamava al barracchino. Cosa? Ma non c'è della roba, però c'è il telefono spento, muzzo. E andare, ma di Pierpaolo Vela 1, senti qua Pierpaolo Vela 1, poi vado a mangiare, sentiamo. riesce a modificarla, fra fare qualcosa, magari riesce a migliorare un po', dai. Cioè, effetto, dopo un reverbero strano. Ah, c'è un letto, vabbè. Ah, oh, stavo riparando. Brava. Cazzo. Sembrava 3. Teresa, la moglie di Franco. Ciao Franco! Ciao Daniele, buongiorno! Buonanotte, buongiorno! Tu prendi la notte per il giorno, la giorno per la notte, gappa! Franco Delta 1, gappa! Lo sai che ancora ho finito stamattina? Alle 2:04 si fare il portato! All'anima! Cesso Maria! No, ho capito di fare! Portatemi a Maria Luisa! Portatemi a Maria Luisa! Portatemi il procurato! Pensavo che stavi procurando uno di quelli, non so, come quello che era stato Daniele. Va bene. Andare. Stai parlando così veloce, non capisce nulla. E ho chiamato da comune. Questo in baia strana, ho ritirato adesso di andare a lavorare. Come vedi adesso devi prendere a lavorare? Sì, da lunedì. Finisco a ottobre. Ehi, andate. Io di nulla già è lu. Sì, infatti mi hanno chiamato giovedì. Venga lo solo del giorno, cioè io ho tirato le scarpe, i guanti, mi hanno dato il giubbotto. Niente, lunedì andiamo al detto solo. Sempre lì, 6 mesi devo fare, no? 4 mesi, 5 mesi. Ehi, c'è anche vicino a casa tua alla fine. Se la posso fare quella cosa là, Millu, fra 10 giorni posso andare di là dove dovevo andare prima. Tu, sei sentito un altro, chiamo dopo. Sì, va bene. Cosa stavi dicendo? Che adesso posso andare di là, dove siamo andati l'altra volta insieme, ti ricordi? Vai. Tanto devi andare dopo, una volta che fai il colloquio, poi vabbè, parli con... con quelli che devi parlare, e poi... ti mandano lì al Cisil, anzi a terra, le scarpe, quello vuoi. No, ma poi devo aspettare ancora 10 giorni, Lu, che non è finita del tutto. Dai, vedo un po' l'aria. Già stavo volando. Devono aggiornare la situazione adesso, capito? Il resto è fatto, è a posto. No, beh, al coso stai dicendo, fanculo, ma come? Ehi, devono aggiornare l'ufficio anagrafe, diciamo, devono aggiornare lo stato di famiglia e poi sono a posto. Ehi, come vedi tu, un bacio mi dice che l'ha fatta, li hanno presi. Un bel. Vedi tu, devi dire quello che puoi dire, poi già ti inseriscono pure a te. Ragazza, andava, chi c'è rimasto qua, Antonio? Yeah. Facciamo già, riprendi anche tu. Sei pazzo, Daniele. Guarda adesso, Lu. Tu ci hai trovato la bocca. Guarda, meglio va. Cazzo, guarda ieri, era più brutto, boh, guardi ieri. Ti avevo fatto uno squillo per essere una lumache, cazzo. Le lumache che... Un bel lumache avevo trovato io, ce l'ho mandato. Ieri ha piovuto, ieri. Ieri ha piovuto, Lu. Cavalava. Ma ce l'ho mandato di guai, se ne è mandato poco. Però non lì. Qua se non è troppo più un bel niente. Dopo, vabbè, un po' lontanuccio, Dopo le gallerie lì a Codrongianos. Quella zona lì. Che dico, vabbè, fa. Va. Quella zona lì, Codrongianos, Mulo, se dove c'è la zona industriale. Sì, va quella lì. Che dico, vabbè, fa che la guarda di sciolo. Cava. Mando. Adesso vediamo, se piove in questi giorni ci possiamo anche andare, Lu. Ho capito. Ho detto, se piove possiamo andarci in questi giorni. Via. E va bene, lunedì sono impegnato, lunedì, mercoledì, venerdì. Questi 4 mesi, dai. Sì, 4 mesi sono, perché 2 mesi sono già ritirati. Ma se capita, martedì o di giovedì ci può fare anche fare. Cioè Daniele mi ha chiamato un attimo, riprende Antonio. Cavalo. Allora Daniele, tu ti ancora porta il microfono, allora il finito. Sempre qua tu, sempre qua, guarda adesso se mi senti meglio. Ora la cipolla. Adesso ti sento bene. Avvicinato, ma non me lo fa mettere un microfono fissato. Ah, ma c'è il +5, devo cambiare le connessioni, ga. C'è il capo, Questo devo pubblicare. Se no, perché se no ci sono dei pubblici, purtroppo, deve stare il pubblico sempre. È un casino. Ehi, appena non sto uscendo bene questo microfono, tu. Sì, sto uscendo bene, ma è quello normale. È quello normale, cosa succede? Se tu siamo lontani appena, non ti sentiamo bene, hai capito? Brava, Appu, compreso, Appu. Ora, per favore, lo mangio davvero questo microfono. Ehi, stamattina ti ho visto, Antonia, ma in Porta Sant'Antonio. Che vado a andare a fare, dai? Cava! Vuoi la tua consegna? Io stavo andando verso via Aurelio Saffi e tu stavi andando verso la stazione, là, Santa Maria. Tu, la macchina? Ah. Ti ho suonato, Anto, se non hai sentito. No, la mia. E volevo dire che forse ho salito lì nel corso e... Magari quando sono salita quando la tomba la cosa la dircela, magari ce l'hanno, e tanto io le più dieci. Allora, ok, con Pierpaolo. Ah, perché ho visto un'altra persona, poi mi sono sfuggita e non ho messo a fuoco chi era. Cara, Lugarie! Tu mi fai? Ehi. Sì, mi sono portato il piatto qua, per i ravioli. Ah, vero? Quelli che compriamo delle di, ma buoni veramente. Mangi un piatto di quelli e stai bene. Ti saziano di lusso. Ma dove lì ho visto stasera a notte? Niente, lui visto ti ha. Boh. Mi sono stato che tu ci mi guardi il vino. La macchina c'è lui, la Clio. E scendendo, poi sono girato e ho fatto di mano. Stavo scendendo a recuperare mia madre. Penso che mi abbia visto, boh. E ha conosciuto il mio cimiere. Salvi, VRC. VRC. Ecco i cavalli sopra e sotto, adesso va dappertutto. Quella frequenza aumento. Ah, lo Smith. Senta, come l'intenda? Ehi, ha tutto? Andiamo. Thank you. codice fiscale. Questo orario mi ha detto di cigare. Io fuori là. No, no. Io dico. Esce a 2, esce a 3, Esce a 4, esce a 5, 4, esce a 5, adesso è salito. Allora la energia lo rimetto com'era. Ah, lui si è rimasto, lo metto com'era, dai. Ti ho detto, ah, come Ancona, M come Milano, C come Cagliari, capo. Allora aspetta, aspetta la bambù. Guarda, ma lei stai adesso. Okay. 78. Adesso quanto è il segnale? Guarda. 9 più 5. Però c'è il radio adesso. Invece là, perché con il segnale di 7 e di 8 la radio deve essere forte. Invece Luca, non c'è il radio, c'è il segnale, non c'è il radio. Non si va, malapena ti sento. Ecco, poi allora sicuramente scende anche la radio. Si sa per appena. Da vaffanculo, mi stai innescando. Alla chiusa appena appena. Chiusa appena appena, dopo. Attende a non uscire. Vabbè, attende a non uscire. Attende a non uscire. Invece di questa maniera la radio aumenta. Hola. Positivo, come questa, non vedi questa, io sto modulando a basso, e ho chiuso tutto, vedi? Chiuso tutto, continuo, lo sollevo, lo porto al massimo. Passa la radio. E allora qua lo posso portare a zero, lui. No. Aspetta, riabbasso qua la radio, aspetta. Vediamo un po'. La radio abbassa dal microfono. Fanculo, ma c'è la vittoria. Qui te l'ho messa, perché se devo mettere qua, no, là. No. La puoi messa in... Ah, ne vuole una qua. Giusto. Ah, già mi stanno, non è che sono ben pesanti a tu, capito? No, non gli ho mai trattato, ci può dire, porti antifortunistiche, ma che cantini trattavo? Oh, mi crema male di bidi. Sono insopportabili, solo che se lì non li usi ti mandano via. Ci sono due volte, ti avvisano per due volte. La prima volta ti lasciano. La seconda volta ti prende i suoi due stracci e se ne vanno via. Pesanti perché hanno la ciabatta in acciaio, capito? Però servono, se ti cade qualcosa non ti schiaccia il piede. Sì, già lo so. Già lo so, tu. Sì, vabbè, comunque. Troppo devo stare. Vabbè. No, perché ho notato che c'è gente che. Tipo la signora, vabbè, ha terminato adesso. No, non è sopportato, infatti lì lavorava con le scarpe da tennis. E dove è il cantiere? La valletta. Aspetta un attimino che riprendo da giù, che così ho visto che fare il TV. Ah, prodotti qua si riprendi. Ah no. No, il problema è che molta gente qua intorno per risparmiare si è fatto l'impianto cioccolata, capito? E dopodiché dà colpa a chi invece regolare. Mi giubate basta mettere così in chiaro. Come l'ho messo io qua. Io l'ho messo in chiaro e non ho capito. Vabbè. Per evitare, no, ma adesso infatti gliela faccio fare una controllatina, se no vado lì scaccia vita e gli abbassi i segnali. Ma se li hanno alzati proprio perché evidentemente l'antenna è frazzica. Sono anima in pace, quanto ne costa la miseria? A casa la ci vuole un attimo, facciamo lei che sia quel problema. Lo puoi fare anche tu, volendo. Ci sto per andarle incontro, mi capito? Perché loro non gliene frega niente, no? Attivo la vuole ombre, solo che al momento tu vai a modulare, fai ti guai. E dici, i salvi per la 2 non è la nostra, perché la non funziona. Ecco loro come ragionano, ecco il ragionamento di loro. Come è successo qua? Io non so qualcosa, ma. Vabbè. Sì, ma infatti già ci dovrò mettere a mano. Vabbè dai, un attimino di quel Rex che riprendo giù, ciao. Che fa? Prova l'altro microfono. E quale microfono cosa? Quello a tavolo. Adesso scende l'accendino sto un baracchino. Il pallui amianto. Guarda bene. Prova. 1, 2, 3. Passa a sinistra. Passo anche il microfono a 4, Sì, a radio. Scusa, non ho confermato anche gli altri. Io non mi sento, quindi, non lo so. Adesso provo a far venire Antonio qua, voglio sentire dall'altra parte, allora come. Chiamalo. Antonio! Cambio. Stavo guardando qua il dito. intendi? Io glielo volevo dire a Claudio, solo che lui non viene a fregare niente. Right. sei contento, ma luce? Ma questo di più, eh. E adesso niente. Niente, ma con la triscia, nulla. Cazzo di aroma. Ma luce, che fa? E cazzo non si muove più la televisione sul primo? Ma con di poco, sì. No, sono con un po' di recupero. Sta facendo bene, va bene. Yeah.